E sulle note delle parole di Rossella Fa, volevamo ricordarvi che il 21 aprile alle 9 ci sarà un presidio a Cagliari davanti al Tribunale dei Minori, un presidio di solidarietà per le antimilitariste, per le antimilitariste che sono state denunciate per l'ingresso arbitrario in alcuni luoghi dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. L'appello è non lasciamole sole. Per ricordare l'evento, la Trident Juncture coinvolgeva 30 stati, 36.000 militari, 60 tra navi e sottomarini e 140 tra aerei ed elicotteri, ed era ospitata nei poligoni, nelle basi navali e negli aeroporti militari di Portogallo, Spagna e Italia. Un'esercitazione che si inseriva nella strategia generale del riarmo e dell'aumento generalizzato della spesa militare, con una programmazione che prevedeva di testare nuovi strumenti aggressivi entro il 2016. Nei paesi coinvolti non sono mancate le mobilitazioni contro questa devastante esercitazione e in Sardegna un migliaio di persone hanno partecipato alla manifestazione per bloccare la macchina bellica. Dentro il poligono è entrato un gruppo di persone riuscendo a interrompere l'esercitazione per un paio di ore. Il 21 aprile, questo prossimo 21 aprile, ci sarà il primo processo nei confronti delle antimilitariste minorenni denunciate secondo l'articolo 682 del codice penale per ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. È evidente che dove inizia l'interesse militare dello Stato finisce la libertà delle persone che vogliono opporsi alla violenza, alla devastazione del proprio territorio, all'occupazione militare e al blocco militare delle frontiere. E quindi c'è un invito, noi facciamo qui dalla radio un invito a tutte e a tutti a partecipare al presidio di solidarietà per rivendicare ancora una volta la libertà di contrastare chi lavora, finanzia e si mette al servizio di uno Stato che progetta nuovi crimini di guerra. L'appello, appunto, potete trovare anche, poi troverete sul nostro blog il manifesto. E appunto Afora Sanato da de sa Sardegna e de su mondo, nessuna pace per chi vive di guerra, no basi né qui né altrove.